è un lavoro di tipo intellettuale, ecco. A chi bisogna rivolgersi? Bisogna rivolgersi a coloro che ti possono dare un consenso immediato, naturalmente questo è molto gratificante, ma serve poco, ecco. Un punto sostanziale che serve poco. Cambia i principi di vita, direi principi etici, tutto sommato, ma a cui poi Valéry si adatta con una certa difficoltà, perché diciamo le cose come stanno, se vuole è andato a caccia di consensi, è stato proprio lui, insomma, no? Da un certo momento in poi della sua vita, da quando è diventato accademico di Francia, correva dietro le lauree honoris causa, tutti i luoghi possibili dove c'erano conferenze che potessero dargli lustro, prestigio. Cioè, dal punto di vista umano, in realtà è una, dal punto di vista intellettuale, quello che stiamo vedendo, dal punto di vista umano, una personalità abbastanza misera, una personalità abbastanza carente, quello di Valéry. Ricordo per certi aspetti un po' quello di Thomas Mann. Anche lui un urto di gloria in quegli stessi anni, no? Ma insomma era, inseguiva un po' il mito di se stesso, insomma, no? Siamo due scrittori, quelli, uno era uno straccione, diciamo così, ed era Robert Musil, l'altro era ricchissimo, era famosissimo. Quando andò per motivi razziali, come sapete, andò a vivere in America, nella sua opposizione al regime nazifascista, nazista, che era il fascista, il regime nazista, andò a vivere in America, ebbe un'operazione, veniva visitato con tutti i grandi scrittori del mondo. Riuscì a dire tutto questo può montare la testa per non più pensare, non più scrivere. Lui riuscì a scrivere ancora cose meravigliose, di cui un libro, non so se ho avuto mai modo di citare in questi tempi, queste lezioni, è il Dr. Faustus, che è un libro veramente che vale la pena leggere con pazienza, ma un romanzo di straordinaria bellezza. Com'era Valéry? Valéry aveva naturalmente una gamma di interessi straordinari. Non era un romanziere, era un poeta, era un pensatore. Darei per dire questo, che aveva però una straordinaria capacità autocritica. E quindi noi vediamo continuamente lui contraddirsi e martirizzarsi anche in questi pensieri. Qui sta parlando, in questo pensiero che consideriamo, sta parlando dell'inseguire il successo e sta parlando sta dicendo che non bisogna parlare a persone inesperte. Io invece non ho mai sentito, diciamo l'altra volta, il bisogno dell'alta opinione di un gran numero di altri che fa agire, gioire, soffrire molti e aspettare e attendere e accettare dal mondo di dire sé un valore la cui speranza fa sì che ci si adatti a illudersi. Bello che ci si adatti a illudersi, no? C'è la speranza del successo e io mi adatto a illudersi, salvo poi naturalmente rimanere impigliato nell'inganno, sì, e poi subire l'inganno. Io non ho mai provato la cura, dice Lesussi, della gloria indistinta, della gloria indistinta di qualsiasi provenienza. E quindi, ricordate l'altra volta che parlavamo, diceva io non ho mai voluto sedurre la giovinezza. Ma perché sedurre la giovinezza, detto questo concetto, è relativamente facile. Per due motivi. Uno, perché la giovinezza è evidentemente, antonomasticamente, inesperta. Quindi è più facile sedurre un inesperto che un esperto. Ma poi c'è un altro motivo che è opportuno considerare, che la giovinezza vuole farsi sedurre, no? Perché cerca qualcosa che cerca la giovinezza di entrare in un rapporto affettivo con la realtà, in un rapporto di entusiasmo. Quindi è facile sedurla, ma vuole farsi sedurre. Nel medico la persona anziana ed esperta vale esattamente l'opposto, che non è facile sedurla, la persona, diciamo, anziana, la persona esperta della vita, non è facile sedurla. E poi la seconda parte è interessante. Forse a difficoltà, stavo pensando, a difficoltà a farsi sedurre, ecco, proprio un po' quel verso di Leopardi che vi ho citato sicuramente altre volte, cioè quando muti questi occhi all'altro cuore e allora ti avvolgo il mondo, questa è l'età anziana, ho detto, per farsi la solitaria, quando muti questi occhi, cioè quando questi occhi non ti hanno più niente, gli occhi di un bimbo, tu li vedi, li passano per entrare nelle loro carrozzine, eccetera, no? E tutti sono, mi seguono, tutti sono portati a guardare gli occhi, anche se sono stati un po' attenti, ma sarà più femminile, eccetera, ma un orario, un buffetto, sulle guance, mi piace molto il bimbo, no? Mi sta attento. Quindi un bambino, o una bella persona, suscita il desiderio di guardarla. Un vecchio no. Un vecchio tu vuoti lo sguardo. Tu vuoti lo sguardo quando un vecchio. Ma il vecchio stesso, e questa è la cosa interessante, che non ha più una voglia di vedere il mondo. Cioè, è interessante questo, insomma. Quando muti questi occhi all'altrui cuore, diceva Bartolo, quando questi occhi saranno muti all'altrui cuore, e a loro si avvolge il mondo, quando il mondo non ci sarà più nei loro occhi, perché non vorranno più vederlo, non vorranno più vederlo, no? No, io pensavo che questo si potrebbe paragonare a una sorta di anoressia dell'animo, per così dire, di anoressia dell'animo. Non si vuol più vedere, non si vuol più, no? Quando si dice che un vecchio vuole rimanere nelle sue abitudini, e questo è assolutamente vero, non vuole cambiare nulla, no? E perché non vuole sottoporsi a squilibri affettivi? Non vuole sottoporsi a squilibri affettivi. Cambia l'idea? Quindi io non voglio, diceva lui, perché non voglio sedurre. E poi dice una grande tremenda, naturalmente, che prevede con tutte le pinze che occorre usare in questi casi, dice non vi voglio far leggere dalle donne, ma avete capito, cioè non voglio fare delle letture che siano facili, sentimentali, e non voglio agire sui tutti i lettori, sulla maggior parte dei lettori, voglio soltanto rivolgermi a persone esperte, i quali mi diano, questo dicevamo l'altra volta, mi diano la loro attenzione, e io in cambio dico, do a loro quello che sono riuscito a pensare. Dice più avanti, dice, la mia gloria è non aver cercato di inebriare, ma aver voluto scambiare onestamente i miei prodotti per il pensiero, contro l'attenzione riflessa, in presenza di una suscettibilità critica temibile, quella dei conoscitori. Ah, certo, perché parlare ai conoscitori è molto meno, per un certo aspetto è molto più difficile, perché i conoscitori ti possono per appunto cogliere il palo. Però questo è quello che lui vuole fare, parlare a persone esperte. Poi dice un'ultima cosa che l'altra volta non avevamo considerato, che è questa, dice però, dice, qualunque possa essere la mia soddisfazione su questo punto, parlare con i conoscitori e non con persone esperte. Io l'ho sempre ritenuta, cioè questo è un appendice al discorso, l'ho sempre ritenuta per esteriore e anche per apparente questa soddisfazione, a dispetto delle condizioni realmente così severe che ho detto, abbastanza severe che ho detto. Perché? Perché non ho mai cessato, anche questo fatto di rivolgersi a esperti, quindi di avere il piacere di un'attenzione di una persona esperta, anche questo in fondo conta poco per me. Perché conta poco? Cioè, perché io non ho mai cessato, non cesso mai di avere, o più in pregio, cioè come pensiero immediato, il sentimento, anzi scusate, al mio pensiero più vicino non ho mai cercato di avere il senso della sua impotenza grossa. Un pensiero, per quanto bello ti viene in mente, avverto che è impotente. Ascoltate questa bellissima lingua. Vedo ai vostri occhi che si vedete, non la sua impotenza attuale, no? Cioè i suoi lati negativi. Io penso una bella cosa, penso una cosa che sembra cazzare. No. Per parlarci molto chiaro. Non tanto la sua impotenza in questo momento, perché se l'impotenza è lì, in quel momento, la vedo, allora cancello il pensiero che mi era sembrato bello, e non se ne andava più. L'impotenza prossima, nel senso che questo pensiero che adesso mi sembra così bello, fra un po' potrà rivelarsi come pensiero fatuo, sciocco, no? Ecco perché quando si pensa e quando si scrive, bisogna stare attenti alle ore della giornata, in cui si fa. Per esempio, ci sono alcuni che pensano bene alla mattina, io dipende, penso bene alla sera, ma sono sempre molto attento, quello che diceva lei quando uno è ispirato deve stare attento, sono sempre attento quando è ispirato. Che lo scrivo, e però per valutare se si tratta di una buona roba, devo aspettare, non c'è niente da fare, cioè non posso giudicarlo in un momento, bisogna lasciarlo lì, chiuderlo, lasciarlo lì e il giorno dopo si vede, a mente fredda, ma mai scrivere con la testa, no, testa calda, lo voglio dire, mai rassegnarsi a lasciare che quello che è scritto con la testa calda rimane così. Questo è un suggerimento che vi do quando dovete fare così. Uno è una bellissima idea, ma per sapere se è bella deve aspettare dopo. Come cucina, non so, per vedere, no? Non lo so, funziona il paragone. Per vedere se una cosa è fatta bene, devi vederla a distanza. Chi è che fa la cucina di voi? Se fa la cucina? La barca, cara mia, la parte è una gran cosa, è una gran cosa. C'è qualcuno qui che non piace la parte? Lei è bella. In che senso vale questo paragone? Cioè, per esempio, tu hai fatto la carbonara di ghiaccio? Cos'è la cosa che ti dice? Ah, basta, non è male. Però anche in questo caso hai fatto il sugo, però devi lasciare un po' lì, però vuol dire che si scuote. No, ma il sugo, che si assimili bene con la pasta, il paragone però è quello da dire. Una pasta che vende per... no, è vero, no? Tant'è vero che i ristoranti dottrinari aspettano sempre un minuto, due, se ti mettono gli spaghetti alle vongole, mi piace prendere le vongole, ma se li mettono, cercate di venire incontro in questa difficoltà, se li mettono lì di servizi, immediatamente, è vero che la pasta non si scorge, ma è vero anche che il profumo complessivo non si riesce a creare, e quindi bisogna il tempo, se bisogna il tempo, e si sente che l'impotenza assedia il suo pensiero. È bello questa idea, non dell'impotenza presente, ma dell'impotenza che ci può essere, che dà un po' il senso terribile della nostra fragilità. Tu hai un sentimento, sviluppi un sentimento, presenti che l'impotenza, quale impotenza? No, quella sessuale, perché, ma voglio dire, più grave quella sentimentale, che non riesci ad andare avanti, quello che tu vorrei. Ma non è, è come se l'impotenza si assediasse, crede l'idea, si assediasse, dall'idea dell'impotenza. E allora, che cosa dice? Quando io sono assediato dall'impotenza, non posso altro che essere poco vanitoso. Quindi pregarmene anche del fatto del successo che posso avere, eccetera, e sentire il senso dei miei limiti. Ecco, la cosa importante per me è cercare di fare. Ecco, vedete come questi pensieri, ancorché voi parecchi attivati come personaggio, vedete come sono umani questi pensieri, non sono vecchi. Andiamo oltre. Questo è il 17. Il 18 lo trovate a pagina 227. Lo ho dato un titoletto, anche gli altri mi hanno un titoletto, non tutti avevano. Qui ho considerato così, argomenti intellettuali. Allora, sentite questo pensiero, seguito. Io mi accorgo con la mia ingenuità, che i miei argomenti e modelli non sono mai altro che oggetti intellettuali, cose intellettuali. Io non mi applico mai a un paesaggio, un personaggio, una scena, una cosa della vita comune. E mi sono costruito questa maniera di vedere interiore, che è assolutamente lontana dalla mia natura fino al 1890. Mi impegna a scrivere quello che ho visto. Niente ricordi. E li tratto all'occorrenza, i ricordi, astrattamente. Che se devo descriverli, lo faccio per sintesi, per costruzioni. Il che dipende senza dubbio, probabilmente, sapete che sono tutti vuol dire due cose. Vuol dire probabilmente, mentre stato cadut vuol dire certamente no, capito? Ma si può anche tradurre cadut come senza dubbio. Dunque, il che dipende dalla mia tendenza a trascurare quel che è dato e soprattutto, primo, dalla mia convinzione che la migliore descrizione, scusate questo passaggio difficile, che la migliore descrizione non restituisca mai quello che si è osservato, ma quello che può formare un terzo che non ha visto la cosa. Adesso ve la spiego. Secondo, che se osservassi seriamente qualche oggetto, lo descriverei in altri termini diversi da quelli dell'osservatore ordinario. Per esempio, gli oggetti visibili, rigorosamente ridotti a quel che l'occhio vede, sono macchie. Intervalli contro il cielo. Vediamo questo interessantissimo pensiero in cui dice questo: io mi applico non alle cose della vita esteriore, cioè non alle cose verso cui i realisti sono interessati, no? Un realista che cosa fa? Un realista, trovandosi di fronte a questo banco, rappresenta questo banco. Qui ci fosse Maupassant, poniamo, no? Maupassant descriverebbe con grande attenzione, descriverebbe questo banco, questa è formica probabilmente, con queste gambe del tavolo, con le placche di metallo, eccetera. No, a me queste cose non interessano, non interessano. A me interessano le cose intellettuali, le cose interiori, cioè le cose come sono diventate nella mia mente. I miei soggetti sono sempre fatti intellettuali. E se io ho dei ricordi, li tratto all'occorrenza, astrattamente. Vediamo un po' cosa vuol dire questo fatto. Lei sarebbe darmi una spiegazione di questa carta? Se ho dei ricordi, li tratto astrattamente. Cosa fai? Cerco di riportare direttamente quello che è arrivato. Bene. Di capire quello che ha significato. Ma quello che ha significato. Una bella risposta. Intanto ha fatto bene. Intanto, si potrebbe dire così, come una sorta... Intanto in modo algebrico. Quindi, cioè io procedo con i miei ricordi. Non so se vale questa considerazione che vi sto facendo, ma tutti sappiamo che l'algebra vale delle lettere, no? Sostituiscono le cifre e le lettere perché indicano dei casi generali. A più B al quadrato. Poi quell'A può essere 2, 3, 4, 5, eccetera. Allora, quello che diceva lei, mi chiama? Mauro. Ecco, questo è interessante, cioè trattare, come dire, un ricordo non nella sua, intendo così, non nella sua densità emotiva, quella per cui mi colpisce e mi turba. Ma Cantabile dice del significato che può assumere per la mia vita, del significato, questa è una delle spiegazioni che mi può dare, insomma, trattare astrattamente un ricordo, no? Oppure si potrebbe dire, come se questo ricordo, ecco, questo è un altro modo di vedere, come se il ricordo non appartenesse a me, appartenesse a un'altra persona. Io sono stato, abbandonato da una persona che amavo, allora ricordando il momento dell'abbandono, lo tratto come se questa cosa fosse capitata a un'altra persona. Vedete come si cerca sempre di mettere in primo piano la ragione e mettere la mente, il cuore in tavola, quella che era più mente, cuore, diceva. Oh, e vabbè. Dice, perché io faccio così? Dice, questo viene dalla mia tendenza a trascurare quello che è dato. Eh sì, perché se io sono stato abbandonato da una persona, questo ricordo mi viene alla mente, cioè più che mi alla mente, è presente nella mia mente, come un qualcosa di oggettivo. C'è poco da elaborare, a questo punto un imbecille, una persona intelligente, hanno... si trovano davanti al ricordo doloroso come si troverebbero davanti appunto a un banco di forze, no? A un banco di forze. Se uno potesse, diciamo un po' di ragione, se uno potesse vedere i pensieri che sono nel nostro cervello, metterli fuori, potesse aprire, immediatamente, la scatola cranica e andare al cervello, in un certo momento con delle pinzette potrebbe prendere questo ricordo. Io trascuro questi dati e questo deriva dal fatto che la migliore descrizione, ecco perché io non voglio descrivere, la migliore descrizione non restituisce mai quelli che si è osservato. Questo è molto interessante. E perché non restituisce quel che la migliore descrizione, quel che si è osservato? Perché quando l'abbiamo osservato, questa è un'ipotesi, eravamo in uno stato d'animo, un epsilon diverso comunque sia da quello in cui siamo adesso, no? E quindi se io descrivo, ma intanto è passato del tempo, sono passati, no, io ho incontrato una persona, per esempio, una cosa moderna, sulla metropolitana, 6, 4, 5, era Natale, mi pare. Io ero seduto, eravamo stretti, come si è stretti sulla metro, non prende mai la metro. Stretti così. Mi si schiaccia contro una signora giovane, avvenente. Io posso rendermi conto che è avvenente dalla, direi, lieve e imperante formosità del corpo che mi piazza attorno. Leggeva un libro di Baricco, voi sapete come mi piace di Baricco, e io cominciavo a pensare molto male di lei. Il viaggio era lungo, quindi io continuavo ad avere questo libro di Baricco alla testa. E a un certo punto dico, ma per Dio, ma io voglio dire a testa che dico, ma lei sta perdendo il del tempo per chiudere la sua mano. Ho cominciato a guardare che era detto in modo molto appropriato, ma senza alcuna ostentazione. Giovane, ma insomma, non ragazzo. Ma poi c'era una cosa doveria, quindi che un profumo complessivo del corpo, una persona molto gradevole. Ora non mi è facile trovare situazioni di questo genere. E poi ho potuto vedere che aveva degli stivali di cuoio, che stavano straordinariamente, bene, una gomma pistettata. Era stivali di maglia, quello di Baricco, che guardava al netto troppo di interesse, ma tutto il resto andava bene. Un anello bellissimo alla al dito destro, ho guardato perché ero sposato, no? Non c'erano neanche, quando guarda queste cose qui per motivi, come dire, duttilologistici, diciamo così, no? E dopodiché questa qui ha una fermata, non era la comunità, era un altro, era un altro. Ci penso adesso, dovessi descriverla, dovessi essere interrogato da un ufficiale di polizia per descriverla, ma colpite come il mio ricordo, sarebbe diverso, tutte le descrizioni sono false. E lui mi dice una cosa bellissima, qual è la migliore descrizione? Per contare che quelle che noi facciamo sono sempre diverse dalle cose che sono quando l'abbiamo vista la prima volta, no? Poi si sono modificati. La migliore impressione, dice lui, restituisce, è quella che, scusate, è quella che può formare un terzo che non ha visto la cosa. Allora, se io gli offro degli elementi, tali a questo terzo che mi sta raccontando, tali da poter ricostruire lui la cosa, allora questa sarà una buona descrizione. Perché dice questo? Perché io, dice lui, Valerio, in questo modo avrò colto uno specifico, un essenziale in questa situazione e un altro potrà, sulla base di questo specifico essenziale che io ho offerto, elaborare una sua descrizione. Avete capito? O, dice, in secondo luogo, se io osservassi seriamente un oggetto, lo descriverei in modo diverso dall'osservazione ordinaria. Per esempio, in certe cose, in certi quadri, gli oggetti visibili, rigorosamente ridotti, sono delle macchie, che gli oggetti siano delle macchie. Se noi vediamo gli oggetti che sono qui intorno a noi, questi oggetti sono precisi e noi abbiamo un nome per ciascuno di questi oggetti. È vero? Quello è un libro, una gomma, una matita, eh? Ecco. Chiaro che sono oggetti poi oltretutto conformi, cioè se io qui trovassi, per esempio, una fetta salame, sarei un po' stupito se in questo momento uno avesse più la fetta salame. Ma non sono stupito di vedere degli occhiali, un astuccio, ci sarà un telefonino, una penna, no? Non siamo stupiti di questi oggetti. Ma che cosa hanno questi oggetti? Questi oggetti che conosciamo benissimo, nessuno di noi è stupito. Se io adesso faccio vedere questo oggetto qui, no? Vediamo che voi fosse un marziano. Il marziano non lo sa che cos'è. Ma lei sa di questo oggetto. Come si chiama? È un libro. È un libro. È un libro. Ma capite che una cosa comune in tutti questi oggetti, che sono macchie. Nel senso che, se posso dire così, nel nulla della realtà, questi oggetti si rappresentano come qualcosa che si delinea su questo nulla. Tanto è vero che se uno ha una vista molto debole, molto bassa, cosa vede? Non gli oggetti distinti, ma vede delle macchie. Allora lui dice, la realtà di un oggetto visibile è anzitutto quella di una macchia. Poi, in uno spazio di un decimo di secondo, vengono fuori altre cose, no? Bene, partiamo da questo bellissimo capitoletto che è il capitoletto 19, la pagina dopo 228, titolo, ed è l'ultimo capitoletto di Ego Scritto, dopodiché passiamo alla parte precedente, quindi lo chiamiamo il lettore ideale di un grande progetto di Valentino. Leggiamo, vediamo solo una parte di questo capitoletto. Della mia repulsione riguardo alla cosa letteraria. Ascoltate. La letteratura nata in qualcuno, io per esempio, si forma, si disegna, si propone, si fa amare, si fa definire, circoscrivere, anche odiare. Questo comincia con l'incantamento prodotto dai racconti. Si mescola del presto con la noia delle lezioni e dell'imparare a memoria, senza che si comprenda perché bisogna che vi ficchino il naso in libri che sarebbero gradevoli se vi fosse lasciata la libertà di giocare. È il caso che vi facete scoprire con tutto il fascino delle scoperte. Questo continua, cioè la letteratura continua, non è tutto, comincia con l'incanto dei racconti, eccetera, continua con i versi che si fanno, che si nascondono, si mostrano pochi intimi, ben scelti. E io mi sentivo un pudore, una reale vergogna di queste produzioni. L'idea sola che chiunque possa leggere quel che si è scritto nel segreto di avventurismo, questa cosa, nel segreto, dallo segreto, nel segreto e nell'avventuroso sentimento della solitudine, ma guardate che era terribile questa espressione, l'avventuroso sentimento della solitudine. È una cosa, lei parla dell'avventuroso sentimento della solitudine. Perché? Parliamoci un secondo su questa cosa qua, avventuroso, perché in realtà voglio dire, lei come si chiama? Valentino. Valentino. Perché avventuroso sentimento della solitudine? Dico avventuroso sentimento della solitudine. Perché comunque la solitudine può essere... Peccato della solitudine. Per fortuna no. Non... Perché ha detto per fortuna no? Perché è una cosa che mi spaventa. Quindi... Spaventa? Sì. Perché la spaventa? Se ci fossero delle avventure da fare nella solitudine, che ne dice? Oh. Per me c'è una regola. No, certo. Allora, paura della solitudine? Avete paura della solitudine? No, no. Che strano, nessuno la vuole. Nessuno la vuole. Pensi che ce l'ha? No. Vorrei che spiegate cosa vuol dire questo avventuroso sentimento della solitudine. Lei lo spiega? Soprattutto uno non sa quello che può capitare. Non sa quello che può capitare, no? Cioè, si potrebbe rispondere, ragazze, si potrebbe rispondere che non capita niente nella solitudine? No, lo per dire ragazza. Beh, può anche essere che la solitudine appunto porti magari più cose, più avventure di una situazione normale. Mm-hmm. Magari anche intellettualmente. Però lei intende di più la solitudine che il contatto con gli altri. Cioè, è vero, sappiamo che ci sia l'avventura, sia nella solitudine, sia ovviamente nel contatto con gli altri. Però lei dice che le avventure della solitudine le temi di più o di meno delle avventure? Di più, forse. Di più. Cioè, in fondo come se non volete, diciamo, lei non volete guardare, non potete, diciamo, l'altra volta stare solo. I mistici che dicono di stare solo, in realtà solo ricevono un rapporto con Dio, diceva padre, diciamo l'altra volta. Uno, se sta solo, non riesce a sopportare l'immagine di se stesso. E allora il problema è questo, cioè lui non sopporta che chiunque possa leggere quel che scrive, d'accordo? E allora continua, dice, cioè diventa strano quello del pudore di Arce. Perché scrivere se non è rivolto agli altri? Se io non scrivo per un altro, che scrivo a fare? Lei che ne pensa? Lei scrive per gli altri? Scrive qualcosa? Che è importantissimo, certo che è più che altro. Quindi altro che rivolta agli altri, forse la ragione per cui si scrive, ascoltate bene questa cosa, è per formare, liberare quell'altro io, quel lettore ideale che esiste necessariamente in ogni essere che scrive. E la cui descrizione è l'intenzione esatta. Se si potesse farla per ogni scrittore, sarebbe di gran lunga la più importante conoscenza critica. Allora, attenzione, questo è un punto capitale. Quando noi scriviamo, abbiamo un lettore al quale ci rivolgiamo, in prima istanza. E chi è questo lettore? Noi stessi. Noi stessi. Quando voi avete scritto una frase al computer, ci vede al computer una frase, poi la rileggete, nessuno conosce, pensate che bello, questa frase, nessuno quella frase la conosce. Se voi fate catch e andate indietro, quella frase scompare. No? Vi sarà capitato di scrivere questo qualche volta, che avete proprio emozioni, parole di odio, o di amore, con una sorta di straordinario pudore. Se qualcuno c'è dietro le vostre spalle che guarda, vi cercate molto. Anche quando si scriveva o si scrive ancora con la penna, uno mette il braccio, un po' come a scuola, quando non volete essere copiato dal bastardo vicino che approfittava, lei era una di queste persone, lei era brava a scuola. Metteva il compito che non c'era copiare? Io mi ricordo che a scuola c'era lungo, alto, era altissimo, che stava al terzo banco dietro di me, e questo qui, siccome io ero molto bravo a scuola, riusciva con un lampione ad arrivare a guardare, passate due file, e allungava completamente per vedere quello che io stavo scrivendo. Ma insomma, voglio dire, il primo lettore sei tu. E diciamo la verità, che quando uno scrive deve leggere a se stesso. E diciamo la verità, che un po' questo nella vita avviene sempre. Se tu vai allo specchio e ti, come le ragazze le fanno, come le ragazze, tutti fanno. Ma le ragazze segnatamente, le donne segnatamente, vanno. E che fate? Andate allo specchio, dovete piacere a voi stessi. E sarà sicuramente un'occasione in cui siete stanche, a parte fare le ragioni, insomma, la legge parte da me, in cui vi sembrate rotta, vi sarà mai capitato quando non c'è. Mi sarà accaduto qualche volta. Cioè, lei fa un discorso di questo genere a se stesso, cioè, mi sembra così anche, più o meno. E se io sembro avere così anche, chissà che effetto posso fare agli altri, no? Ci sono signori che vanno in ascensore la mattina, oddio, vedono se stesso, vedono del capiotto dell'ascensore, oppure si vedono nello specchietto naturale di una mente che diceva che lei si toccava in macchina, però doveva guardare. E quest'idea che doveva andare all'ufficio dopo che era vista era troppo scomentabile. Il primo lettore siamo noi stessi, quindi siamo un lettore ideale che è dentro di noi. Va bene? Bene. Questo, ascoltate bene questo punto di vista, questo lettore ideale che è dentro di noi, quando scriviamo, è uno che capisce le nostre sottigliezze. Allora, un procedimento molto interessante e critico sarebbe di vedere qual è in ciascuno scrittore il lettore ideale. Ha capito qual è la questione? Cioè, Proust, che è stato credendo quelle cose fantastiche che sentite, eccetera, no? Si reggeva. Si reggeva. E come quel lettore che in Prusso giudicava quello che leggeva? Che diceva? Non diceva tanto perché non era romano. Come sono bravo, oppure fa schifo quello che fa. No, perché abbiamo degli indizi, per esempio, Prusso leggeva, leggeva la ricerca degli amici. E voi vi sarete tutti di una ghignazzata leggenda. Non delle parti, naturalmente, che sto facendo adesso, ma insomma la leggeva sul letto, credendo di certe cose, dicendo che era una cosa moltissima quello che aveva scritto. Trovare il lettore ideale è importantissimo. Attenzione ancora a questo concetto. A questo concetto del lettore ideale che è dentro di noi, è chiaro il punto, e che un critico dovrebbe sapere, riconoscere quindi in ogni scrittore. Qual era il lettore che c'era in Flaubert? Qual era il lettore? Se uno facesse riuscisse a capirlo, è un passo avanti possibile. E arriva una definizione, da questo che abbiamo appena detto, una definizione più ampia di lettore ideale. Chi è il lettore ideale? Di cui Maretti parla in varie circostanze. Il lettore ideale, ideale per l'appunto, è colui che sa capire, al di là di questo discorso, che sa capire il significato di un testo. Cioè, quando uno scrive, pensa sempre, ma il lettore capirà quello che voglio dire. Se ci fosse un lettore che capisce realmente quello che io voglio dire, perché chi capisce in un modo, chi capisce in un altro, chi mi fa dire delle cose, chi me ne fa dire delle altre. Ma il mio lettore ideale, pensa lo scrittore, il mio lettore ideale, potrebbe capire chi sarà il lettore ideale. Ecco, questo è il punto. Io mi trovo di fronte a molti lettori che sono lettori ideali, ma lettori reali, no? La sensazione che uno ha quando ha scritto un libro è che questo libro venga giudicato diversamente, magari bene, magari con grande intelligenza, ma c'è stata una recensione del mio libro più antico, dottissima, ma in cui dice le cose che non ho mai pensato. Non è la mia lettrice ideale. Io solamente ho ringraziato la persona che l'ha fatto, ma avrei voluto dirle: ma cara signora, ma io non volevo affatto dire queste cose. Allora, due concetti di lettore ideale. Primo, lettore ideale che è dentro lo scrittore, e quindi il critico sarebbe molto importante che capisca chi è questo lettore che è dentro lo scrittore. Due, lettore ideale come colui che sa capire esattamente quello che vuol dire lo scrittore. Ed è questo quello che lo scrittore spera, pensa, spera di amare. Bene, adesso ci interrompiamo un momentino e adesso devo distribuire le schedette e quindi comincio a distribuirle, anche se qualcuno di voi mi aiuta. Ricordatevi che